Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, sembra proprio che il caso Grecia Eurozona abbia fatto montare la testa a qualcuno. C'è già chi si spinge a parlare di fallimento dell'unione monetaria, nonché a fare previsioni catastrofiche sull'inflazione o sulla situazione del debito complessivo europeo. Ora, qui nessuno si illude che la situazione sia rosea e che il piano antispeculazione sia la panacea di ogni male, che cancellerà magicamente i problemi. Però andrebbero specificate un paio di cose a scanso di equivoci. A mio avviso sarebbe meglio che i catastrofisti si mettessero il cuore in pace, perché gli ultimi eventi non dimostrano fallimenti o endemiche debolezze dell'euro, ma l'esatto contrario. Lo abbiamo visto chiaramente dal comportamento della moneta unica, che durante la crisi è stata ben lungi dal precipitare in caduta libera come qualcuno temeva o addirittura sperava, ma si è limitata a perdere valore, rimanendo comunque in un range che qualche anno fa gli stessi catastrofisti consideravano troppo forte, talmente forte da essere foriero di mai avvenuti spaventosi tracolli delle esportazioni europee. Ci è voluta la Grecia, con il suo disastro, a far calare l'euro, in precedenza rimasto del tutto indifferente alla crisi mondiale in sé, mentre la blasonata sterlina si svalutava fino a raggiungere la parità de facto con la moneta unica e le altre valute europee la seguivano a ruota con cali più o meno consistenti. Quello che non funziona, come del resto già sapevamo, è il sistema politico che sta dietro l'euro, ancora mal organizzato e troppo poco unito per gestire come si deve una valuta comune e di questo spessore. Andrebbe ricordato che questa crisi è stata provocata dalla speculazione che la Grecia stava sfruttando, Grecia che non sarebbe entrata nell'unione monetaria se avessimo saputo della vera situazione dei suoi conti pubblici. La crisi non è nata quindi dalla semplice presenza nell'eurozona di Spagna e Portogallo, giusta o avventata che la si ritenga. Andrebbe infine ricordato che episodi di questo genere esistevano da ben prima che ci fosse l'euro. Nel 1992 George Soros eseguì un attacco simile alla lira e alla sterlina, ma con effetto finale ben diverso. Le due valute non si limitarono a un relativamente leggero calo come l'euro, ma crollarono fino all'impossibilità di mantenersi nella banda d'oscillazione dello SME, che fu così ampliata per tutte le valute del paniere, decretando de facto la fine del sistema. Insomma, dopo tutto quello che è successo, direi che sarebbe arrivata ora di capire due cose fondamentali. L'epoca del quello che succede agli altri non sono affari miei in Europa è finita. L'unione monetaria è un patrimonio fondamentale e strettamente connesso al futuro dell'integrazione europea intera, non un club economico dove chiunque va e viene come gli fa comodo. Sergio. Caro Sergio, lei ha messo in rilievo il punto centrale del problema. Quello che manca all'Europa è un sistema politico unitario, in grado di attuare la politica economica necessaria a sostenere la moneta unica. La creazione dell'euro è stata certamente una scelta ambiziosa, è stata la dimostrazione della volontà dei paesi aderenti di proseguire sulla strada dell'integrazione, rendendo visibile e concreta l'espressione più alta della sovranità e della solidità economica, la moneta, appunto. Su questa strada si sono compiuti alcuni passi falsi, come quella dell'adesione della Grecia, 2 anni dopo l'avvio della moneta unica, sulla base di dati economici truccati e di promesse poi non mantenute. Detto questo, è necessario guardare avanti. Proprio nella situazione di squilibrio mondiale che sta caratterizzando questi mesi, con il difficile percorso di uscita dalla crisi partita dagli Stati Uniti, l'euro costituisce una salvaguardia verso le tentazioni nazionalistiche e quindi protezionistiche. Con il grande piano di interventi varato la scorsa settimana, l'Europa ha dato una prova di unità e di volontà di azione. Se con questo stesso coraggio l'Europa riuscisse a mettere in campo un grande piano di rilancio dell'economia, allora dimostrerebbe di saper mettere a frutto anche le difficoltà. Caro direttore, stiamo sentendo che in paesi in difficoltà come Spagna, Grecia e Romania si parla di tagli a stipendi e tredicesime varie a dipendenti pubblici. Ma mai si è sentito di tagli a stipendi dei politici in carica, né in quei paesi né in Italia. A proposito, com'è finita la storiella del taglio dei parlamentari e i relativi vitalizi d'oro italiani? La gente sta sempre aspettando e con lo stesso stipendio di sempre. Sarebbe opportuno, caro direttore, in una trasmissione di Radio 24, richiamare il ministro competente. Non ci sono speranze se non battendo il tamburo con la vostra forte voce della radio. Christian. Ho sentito l'altra sera l'intervento di Ascanio Celestini, che difendeva il film della Guzzanti e paragonava le case prefabbricate che il governo ha realizzato all'Aquila a dei campi di concentramento. Ma chi è sto signor Celestini per poter dire cose del genere? Che senso ha fare critiche del tipo «ai terremotati non sono state date case vicino al posto di lavoro, eccetera, eccetera». Ma lo sa questo signore che ci sono persone che vivono ancora in tende, container o comunque in situazione di fortuna da più di 20 anni, quando in Abruzzo, dopo pochi mesi, migliaia di persone hanno già una nuova casa con tutti i comfort? Mi sembrano le stesse critiche che pochi mesi fa faceva la sinistra, lamentandosi che nelle nuove case le stoviglie e le lenzuola erano tutte uguali. Siamo al paradosso. Stefano, Padova. Ho sentito l'intervento di Ascanio Celestini alla vostra radio e sono d'accordo che abbia detto un sacco di fesserie. Però che il terremoto dell'Aquila sia servito un po' a Berlusconi a ritornare in auge, questo è vero. In quell'occasione il primo ministro ha dimostrato la sua genialità di imprenditore ed è riuscito a risolvere la questione meglio di qualsiasi altro. Ed è questo il punto. Se nel 1994 avesse continuato a fare l'imprenditore, ci saremmo risparmiati 16 anni orribili. Franco da Pisa. Ho 41 anni e seguo da anni il calcio italiano in TV, allo stadio e anche a volte in trasferta. A marzo con la mia famiglia siamo andati una settimana a Londra e assieme a mio figlio sono andato a vedere la partita Fulham-Manchester City. Abbiamo acquistato i biglietti tramite internet pagando la metà di quello che avremmo speso andando a vedere una partita allo stadio di Udine. La prima cosa che mi ha colpito è stato vedere in metropolitana le due tifoserie a contatto senza problemi. Anzi, i tifosi delle due compagnie erano molto cordiali e si scambiavano informazioni su quale fermata scendere. Sembrava di andare ad una festa. I bambini che giocavano a calcio nei prati fuori dello stadio, la giornata era bellissima e davanti allo stadio la polizia era poca. Lo stadio si è riempito, la tifoseria era caldissima con molte famiglie e bambini e nonostante il primo tempo la squadra di casa perdesse per 2-0, mentre la squadra rientrava nell'intervallo negli spogliatoi, il pubblico era in piedi ad applaudire i loro beniamini. E mio figlio mi chiese: «Perché battono le mani se la squadra perde?» Io gli risposi che si trattava di gente educata, che è contenta e capisce quando un giocatore dà tutto. Mio figlio ha conosciuto un calcio vero, in cui gli avversari, l'arbitro, i tifosi vengono rispettati. Il calcio italiano, a dir la verità, da quella domenica non mi attira più. Penso sia governato e organizzato da personaggi incompetenti e faziosi che lo hanno rovinato e lo rovineranno ancora. Ogni domenica succede qualche cosa di spiacevole. Gli arbitri che vengono insultati, le tifoserie che si accoltellano, i giocatori che si prendono a calci. Sono veramente stufo delle continue polemiche e di tutte queste cose diseducative verso i giovani bambini calciatori. Antonio. Caro direttore, l'altra sera ho sentito che per fermare la falla che sta distruggendo un ecosistema millenario, i russi suggeriscono di utilizzare esplosioni nucleari controllate. Poi ho visto il filmato. Si tratta di un tubo rotto. Ma dico io, siamo andati sulla Luna, abbiamo viaggiato fuori e dentro l'atmosfera saltellando come grilli e non riusciamo a mandare in profondità un saldatore meccanico? Capisco che gli idraulici siano peggio degli orefici e che spesso non presentino la fattura, ma chiamiamolo lo stesso. Prescindendo dal fatto che certi incidenti si possono verificare senza che sia stato studiato un piano di emergenza a priori, ma è mai possibile che non abbiamo una tecnologia per infilare un tubo più grande sul tubo più piccolo che perde e reincanalare il liquido? Rudy. Dire no alle centrali nucleari a priori è sbagliato, ma la domanda che io vorrei sentir fare è: chi è favorevole ad avere la centrale a meno di 3 chilometri dalla propria casa? Sappiamo tutti quale sarebbe la risposta. Renzo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.